I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. La riforma delle banche popolari è quindi passata con il voto di fiducia, è diventata legge. Un tassello importante nello sforzo di modernizzazione di un settore tanto cruciale quanto delicato come quello del credito. Per le prime 10 banche popolari che abbiano attivi superiori agli 8 miliardi scatterà quindi l'obbligo di trasformarsi in società per azioni, diventando quindi contendibili sul mercato. Si apre dunque una stagione di aggregazioni e di rafforzamento per l'intero settore bancario. Sarà importante che questo ennesimo risico non perda di vista però il ruolo che le banche popolari hanno per lo sviluppo dell'economia del territorio. Spesso le popolari hanno finanziato ciò che altre banche ritenevano non bancabile e spesso sono riuscite a concedere condizioni più vantaggiose rispetto a quelle garantite da altri grandi operatori. Le popolari sono spesso il driver di sviluppo dei mitici distretti industriali locali, di iniziative di welfare e sociali che altrimenti non avrebbero risorse, quindi hanno un ruolo strategico per lo sviluppo del territorio. Tuttavia il mito del principio di una testa, un voto, che ha guidato finora la governance delle popolari ha creato in realtà deleghe cammellate per questo o quel RAS locale, presidenze a vita, gestioni troppo autoreferenziali, confusione di ruoli e conflitti di interessi fra prestatori e prenditori, tra controllori e controllati. È importante dunque che la riforma impedisca questo per il futuro, ma è altrettanto decisivo che non perda di vista la missione locale di questi istituti. Sarebbe un esito infausto di una riforma importante se queste banche finissero preda di fondi impersonali e anonimi, interessati magari solo a brevi ride speculativi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. È un'altra giornata di dati positivi sul fronte economico. In primo luogo c'è il buon andamento di un indice che si chiama IFO e che misura il livello di fiducia sulle prospettive economiche delle imprese, degli imprenditori tedeschi. L'indice IFO a marzo ha registrato un rialzo superiore alle attese ed è tornato ai livelli massimi dalla scorsa estate. È un segno abbastanza evidente che per gli imprenditori tedeschi le cose stiano andando un po' meglio e che guardano con più ottimismo e fiducia ai prossimi mesi. Sul fronte italiano è l'Istat invece a segnalare i successi del nostro commercio estero, che a febbraio negli scambi al di fuori dell'Unione Europea ha messo a segno una crescita del 7,1% rispetto all'anno scorso. È un risultato ottimo e che conferma la forza di molte imprese italiane sui mercati internazionali. In questo clima vanno registrate anche le parole pronunciate ieri dal ministro dell'economia Padoan, che pur consapevole che la nostra economia non ritornerà ai livelli pre-crisi, ha sottolineato due cose. Da un lato il fatto che l'Italia ha conquistato e sta mantenendo la fiducia dei mercati e delle istituzioni internazionali, dall'altro che questo clima di fiducia deve ora rapidamente estendersi, affermarsi anche tra le imprese e le famiglie per sfruttare al meglio questo squarcio di luce sulla via della ripresa, possibilmente con una crescita del PIL più solida dello 0,2%, come oggi indicato dal Centro Studi Confindustria. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.